Monte Citorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, e qui a Montecitorio e dintorni oggi si parla di tesseramento, presunto tesseramento gonfiato nel Partito Democratico. Ci siamo spostati dal palazzo a Sant'Andrea delle Fratte, la sede del Partito Democratico, per incontrare Alfredo Dattorre, deputato però che si occupa in segreteria nazionale delle riforme, è responsabile proprio delle riforme. Io vedo dei fogli con su scritto circoscrizioni, province, insomma una serie di nomi che state controllando, le tessere false. Tessere false, io non ho alcuna esperienza, siamo al lavoro come sempre sui temi del partito e sul tema del congresso. Io credo che sia stata molto opportuna questa decisione che ha preso la segreteria nazionale, poi ratificata dalla commissione. Noi non possiamo consentirci alcuna ombra sul nostro congresso. Sul territorio nei giorni scorsi sono accadute delle cose in alcune parti non belle, cose circoscritte ma rispetto alle quali occorreva un segnale netto, e credo che la decisione che è stata assunta di avere un elemento di certezza e di trasparenza entro domenica, avendo il quadro di tutti gli iscritti con diritto di voto, sia utile e vada in questa direzione. Quindi lei ovviamente parla dello stop al tesseramento fino al nuovo congresso, che è l'8 dicembre. Quello che non abbiamo capito, perché si è gonfiato un tesseramento? Gli iscritti del PD chi eleggono, e invece chi elegge l'elettore del PD, colui che va senza tessera del PD a votare per le primarie? Ma innanzitutto, guardi, non c'è nessun fenomeno abnorme nel complesso riguardo il tesseramento. Il tesseramento si chiuderà a un livello inferiore a quello del precedente congresso, e anche il numero dei votanti non supererà quello del precedente congresso. Dentro questo quadro però hanno colpito alcune singole realtà locali in cui si sono verificate delle anomalie. Rispetto a questo è stato giusto dare un segnale. Dove? Posso chiedere dove? Ah, in diverse parti d'Italia, da nord a sud. Da questo punto di vista non è un fenomeno che ha riguardato solo il sud, come forse qualcuno poteva avere la tendenza a credere sulla base di radicati stereotipi. Il congresso è articolato in due fasi. C'è una prima fase in cui votano gli iscritti. Gli iscritti, tra l'altro, selezionano i tre candidati che hanno diritto poi di partecipare alle primarie aperte, poi il voto finale decisivo viene dato dagli elettori del PD che l'8 dicembre andranno a votare. Un congresso basato su due pilastri: prima il pronunciamento degli iscritti, che fornisce un primo orientamento, e poi il voto degli elettori. Ci potrebbe essere un organismo dirigente che elegge magari Cuperlo, che sceglie Cuperlo, che è un po' il candidato della segreteria, e invece gli elettori che non sono iscritti che scelgono Renzi. Come farete in questo caso? Ma innanzitutto non c'è alcun candidato della segreteria, i quattro candidati partono tutti in condizione di parità, e tutti propongono a loro modo un'idea anche di rinnovamento, di cambiamento. Io ho una mia personale convinzione, vedremo se i fatti la confermeranno. Io credo che non ci saranno grandi differenze tra il voto degli iscritti e il voto degli elettori. Gli iscritti non vivono sulla Luna, sono appunto il nucleo interno della nostra comunità. Io credo che il loro voto in larga parte anticiperà quello che sarà l'orientamento degli elettori. È stato così l'ultima volta quando abbiamo eletto Bersani, io credo che sarà così anche questa volta. Quindi chi vince, Renzi? Lei non lo può dire? Ah, vedremo. Mi pare che la partita sia più aperta e più combattuta di quanto si potesse pensare fino a qualche settimana fa, e mi pare che già i risultati che emergono dai congressi provinciali, che naturalmente attengono anche a questioni locali, però indicano che il quadro del partito è molto più articolato. Sia i primissimi congressi di circolo che si stanno tenendo indicano che la partita è aperta. Guardi, un conto è il congresso che si gioca sui giornali e in televisione, perché su quello sarebbe già finita 100 a 10, 90 a 10. Non c'è partita dal punto di vista della copertura mediatica. Quindi il congresso dei media Renzi lo ha già stravinto. Il congresso degli iscritti e dei nostri elettori non lo so, quello è ancora da giocare. Io credo potrebbero esserci anche delle sorprese. Ci crede alle primarie del PDL? Ha visto anche Alfano, le vorrebbe. Poi c'è questa spaccatura anche in quello che sembrava un partito monolitico, un partito che poi alle volte veniva anche definito di plastica, invece è diventato proprio un partito, perché poi litigano anche tra di loro, quindi come nel PD, litigano anche nel PDL. Sì, litigano. Io ho la sensazione che Berlusconi le primarie non le consentirà mai. Berlusconi e le primarie, cioè Berlusconi e la partecipazione democratica, mi pare che siano due termini abbastanza antitetici se guardiamo alla storia di questo ventennio. Tra le primarie del PD che si fanno con sui gazebo, eccetera, c'è il Movimento 5 Stelle che invece preferisce il web, e quindi le primarie si fanno sul web, i voti si fanno sul web. Lei ci crede? Assolutamente no. Chi controlla? Quali elementi di certezza ci sono? È una procedura molto, molto opaca, nelle mani sostanzialmente della società di Casaleggio. È un salto ulteriore perfino rispetto al berlusconismo nella delega assoluta a un uomo solo al comando. D'altra parte lo spettacolo che stanno offrendo i grillini in Parlamento è la conferma di tutto questo. Ogni margine di iniziativa autonoma è... Sì, ma invece nel Partito Democratico di democrazia ce n'è tanta. Non vi siete sentiti un po' in imbarazzo questa settimana a sostenere il ministro Cancellieri? Renzi è stato un po' duro. Insomma, questa telefonata vi ha imbarazzato, questa telefonata alla famiglia Ligresti? Ma guardi che sia il capogruppo Zanda al Senato che quello alla Camera Speranza e il segretario Epifani hanno parlato con chiarezza, hanno detto che la telefonata era sbagliata e inopportuna. E hanno detto tuttavia che il comportamento del ministro dal punto di vista poi diciamo degli atti istituzionali non presentava profili tali da portare alla richiesta di dimissioni per due ragioni fondamentali. Uno, perché il ministro ha dimostrato di aver compiuto interventi umanitari in molti altri casi. Due, perché è stato attestato dalla Procura di Torino che la decisione non è stata in alcun modo condizionata dall'intervento del ministro. Sorprende che questa posizione seria, equilibrata, discussa nei gruppi parlamentari e nel partito da tutti e condivisa da tutti, poi venga messa in discussione successivamente da Renzi. Renzi avrebbe potuto prima dire quello che pensava se lo riteneva, anziché parlare a cose fatte. Quindi lei contesta Renzi che sta poco nel partito, ma lui è l'antipartito, no? Lui vorrebbe un po' smantellare questo partito pesante, no? C'è sempre questa idea un po' ex comunista, no? Sono gli ex comunisti, l'apparato. Guardi, lei è entrata in questa sede, mi pare che ci sia più da ricostruire, da rimboccarsi le maniche e ricostruire dopo le difficoltà di questi ultimi mesi piuttosto che da smantellare. L'antipartito, Renzi si è candidato a fare il segretario del partito, da tutti i giornali è considerato il grande favorito, se hanno ragione i giornali italiani tra un mese sarà il segretario del PD. Mi pare che la rendita di essere l'outsider, l'anti, sia finita. Adesso deve dimostrare di saperlo far funzionare questo partito. E forse dovrebbe iniziare a farlo da subito, visto che è candidato, anzi è il candidato favorito alla segreteria del PD. Allora ringraziamo Alfredo Dattorre e io vi do appuntamento a sabato prossimo. Un saluto dal Partito Democratico, Sant'Andrea delle Fratte. Grazie. Grazie a voi.